e gran sorte la mia. Elfi partito e Cesare da noi, come sofferse quel rosse gran porco che disse che farò. Tu lo saprai, tu che sei tanto della sua gloria amica. Ecco Cesare stesso, egli te lo dico. Che peggio a tanto eccesso giunse Catone, igual dovere, qual legge, pur render mai la sua feroce addoma. E il senato vi gregge, e Cesare un tiranno, e solo è Roma. E disse il vero. Ah, questo è troppo, e brava per mio compio mi rendo. Io vo, di che m'aspetti, e si difenda. Ti blata, il tuo sdegno, in parte giusto, il veggio anch'io. Ma il padre ha ragion dubitò, dei suoi sospetti menno della cagion. Tutto saprai, che ascolto. Ormai consolati, o signore, la tua fortuna tenne d'invidia. Ad ascoltarti alla fine scendi Catone, io di favo sì grande la novella tirai. E così presto si cangia di pensiero, anzi il suo pregio e l'animo ostinato. Ma il popolo adunato, i compagni, gli amici uti cantera disiosa di pace, a forza svelto il consenso da lui. Signore, che pensi? Una privata offesa non seduca il tuo gran cuore. Venni a Catone e insieme fatti amici, servate tanto sangue in latino. Oh, Marzia! Io dunque amo averti a pietà. Non son bastante. Più dubitar non posso. E Marzia amante. E penso ancora, Marzia, di nuovo al padre vuoi chieder pace, e soffrirò fin tanto ch'io perda di placarlo ogni speranza. Tutto per te si faccia, troppa forza sul mio cuore io